America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. AT&T is buying Time Warner and thus CNN. A deal we will not approve in my administration because it's too much concentration of power in the hands of too few. Uno scontro fra giganti, avete sentito il newscast, uno scontro fra un gigante degli affari e il governo americano, gigante per antonomasia. L'amministrazione Trump ha deciso di portare in giudizio la proposta di fusione fra AT&T e Time Warner, dunque di portare in giudizio la AT&T. Ecco, a questo punto il conflitto su questa fusione da 85 miliardi di dollari, beh, è passato dalla teoria alla pratica, è una svolta decisiva, per questo apro la trasmissione su questa notizia di ieri, una svolta decisiva per il mondo degli affari, per le ipotesi di consolidamento di un settore chiave, quello dell'infocom, e per le dinamiche competitive, perché solo nel 2011 una fusione simile, una fusione fra Comcast e NBC, che formava un gruppo non diverso da quello che vuole formare l'AT&T con Time Warner, era stata approvata dal governo americano, diciamo dall'amministrazione Obama, che aveva imposto soltanto alcuni disinvestimenti minori. Questa volta invece, come ricorderete, il governo chiedeva di vendere, per esempio, la CNN, grande rete televisiva delle News 24, sette, cosa che ha immediatamente, questa richiesta ha immediatamente generato un sospetto di intrusione della politica, perché è noto che il presidente americano Donald Trump detesta la CNN e la detesta perché ritiene che sia contro di lui con fake news e così via, così via. E dunque la possibilità di poter mettere un bastone fra le ruote, un'operazione che include come protagonista principale proprio la CNN, diventa una tentazione irresistibile. Ecco, attenzione però, perché ci sono anche importanti considerazioni che riguardano le possibili implicazioni effettivamente monopolistiche di una fusione di queste proporzioni. Il New York Times, ad esempio, notoriamente anti-Trump, è sceso in campo per elogiare il comportamento del governo a protezione dei consumatori. Sostanzialmente ha detto il New York Times: attenzione, esploriamola fino in fondo questa fusione, perché dobbiamo essere certi che non si stiano commettendo dei soprusi. In effetti è proprio su questa protezione dei consumatori che il governo ha costruito la sua sfida giuridica contro l'AT&T. Ecco, il colosso delle comunicazioni ha però già risposto, andrà fino in fondo e ha dichiarato di essere certo che la Corte federale preposta al processo darà ragione all'azienda e non al governo. Insomma, da ieri parte una sfida fondamentale nella costante battaglia fra settori che cercano di diventare sempre più grandi e il governo che cerca di limitarne il potere per tutelare il cittadino, il consumatore. Sorge però spontanea una domanda. Ecco, come mai ci si concentra su AT&T e Time Warner, due protagonisti della vecchia economia, cioè una fusione di 85 miliardi di dollari è relativamente piccola se pensiamo ai valori delle grandi, di Google, di Amazon, di Facebook. Come mai non si attaccano anche loro, veri grandi monopolisti di un settore sempre più invasivo per la nostra privacy, per le nostre abitudini di acquisto, un settore che ha assorbito gran parte della pubblicità disponibile mettendo in ginocchio i media tradizionali, la qualità dell'informazione, la trasparenza di quello che si dice per rendere migliore il dibattito politico? Ecco, credo che sia soltanto questione di tempo. Non so se toccherà a Trump farlo, ma il percorso che sta ingigantendo i colossi high tech dovrà a un certo punto fermarsi per un esame di coscienza collettivo. Va bene, passo rapidamente alla cronaca. Beh, cronaca politica: Donald Trump ha deciso di mettere la Corea nella lista degli stati sponsor del terrorismo. Ecco, si tratta, come dire, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Il presidente americano aveva cercato di aprire in qualche modo la Corea del Nord e adesso torna di nuovo all'attacco. Era da molti anni che la Corea del Nord era uscita dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo proprio per cercare di indurla a un dialogo che poi, come abbiamo visto, non c'è stato. Ecco, adesso però vorrei passare a un fatto di cronaca che avrete certamente seguito in TV o sulle news: la morte di Charles Manson, del mostro Charles Manson. We begin with breaking news tonight. Infamous killer Charles Manson has died. The Department of Corrections just confirmed the news. Crystal Cruz joins us live from our newsroom. Ecco, Charles Manson, secondo me, è l'epitomo del mostro, della persona cattiva, pericolosa, della persona che rappresenta il peggio di quello che una società avanzata può mostrare ai suoi cittadini e, nel caso dell'America, al resto del mondo. E parliamo dell'agosto, del 9 agosto del 1969, parliamo di una famiglia che era molto felice, Roman Polanski, il grande regista, la moglie Sharon Tate incinta, degli amici che erano a casa, Polanski era in viaggio, Charles Manson, un personaggio che aveva subito a sua volta delle violenze sessuali da ragazzo, un personaggio deviato da quella che poteva essere considerata così una vita normale, aveva costituito un culto, aveva organizzato una famiglia, The Charles Manson Family. Ecco, questo gruppo a un certo punto entra al numero 10050 di Cielo Drive a Los Angeles e compie una strage. Ecco, c'è un aspetto però che vorrei sottolineare qui, e cioè che alcuni, come dire, in qualche modo hanno cominciato a elogiare l'operato di questo Charles Manson come un eroe che combatteva la società, un eroe negativo, ecco, voglio sottolineare, un eroe negativo perché non c'è nulla di peggio di quello che ha compiuto questo mostro, questo assassino. Eppure alcuni nelle frange della nostra società, come dire, magari si sono ispirati a lui come segno di ribellione. Non è ribellione, non è assolutamente ribellione, è follia pura. Questo va chiarito nel modo più assoluto, perché a 83 anni in prigione è morto un mostro di cui l'America avrebbe fatto volentieri a meno, un mostro in fondo non dissimile, se ci pensiamo, a Totorina, che ha compiuto a sua volta le stragi che conosciamo. Ecco, due mostri sulle due sponde dell'Atlantico che sono morti entrambi e che dovrebbero lasciarci un messaggio di speranza che le efferatezze che hanno compiuto non vadano a ripetersi mai più. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Charles Manson, degli efferrati omicidi dell'estate del 69, un'estate segnata però non solo da eventi luttuosi, ma anche da messaggi positivi. E dunque voglio ricordarvi come segno, come simbolo della speranza, un hit di quell'estate, The Creedence Clearwater Revival. Proud Mary. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost a minute of sleep, and worrying about the way things might have been. Big wheel keep on burning, Proud Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!